Adesso va meglio, la verità, eh. Meglio così, eh. Adesso va bene, lascia tu così, fregata. Andiamo bene, andiamo, bobo. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola. Cosa c'hai, Antonè? Mal di gola c'hai? A te, perché si sente che c'è mal di gola? E allora non si intende? Che è te? Va bene, meglio così, comunque sia. Va bene. Ti va bene? Tutto a posto. E magari niente inutili. E più o meno sì, va bene. Quello che è. Sì, è così. E andiamo bene. Andiamo bene, il giallo. Carità. Aspetta un secondo che devo sistemare un pochettino l'altro, 2 minuti, vediamo se mi senti, dai. Mi senti? Sì. Prova! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova! È meglio chi dà la radio, che chi sa? Dico, va, il clarinetto va! E vabbè, devi capire che io sono in pratica con 5 watt adesso, non sono con 20, quindi a un certo punto la questione cambia. E questo è 5 watt allora. Ah, ma già sta uscendo bene adesso, stai uscendo. Ah, meglio così, sono contento, va. Va bene. Che radio è quella? Ah? Che radio stai uscendo? Con il 3009 sto uscendo, la verità. Scusate, il 3009 è quello che ho io. 15 watt. Questo è l'8009, così. Ok, il 3009, sì, esatto. No, 8009 no. Il 3009. Io cosa ho detto? Non ho detto 3009. Vabbè. Quello sto usando adesso, in questo momento. 2009 e funziona abbastanza bene, ho visto, anche se è vecchiotto, è un turbo e funziona benissimo. Ma capito che la roba vecchia, proprio i divoni, sono quelli lì che funzionano bene, non di scendavai, che non valgono nulla. Già lo so anch'io, quello che stanno costruendo adesso fanno schifo, fanno. Ma neanche regalo aver voluto il 2009 quello nuovo. Hai capito? Questo è quello originale, quindi se uno mi vuole dare un 2009 simile al mio, allora minimo la metà del costo di quello che l'ha pagato lui, perché fa schifo, non per altro, perché non serve a niente. Non ne prenderei neanche io di quelli nuovi. Ce n'è uno, un 3009, mi pare che ero Mattesi, su internet, su Facebook. Ne vuoi 300 euro, ne vuoi. No, quello è tutto scemo, lascialo perdere, cazzo, ma ce la fai. Ma c'è un sacco di gente che è così, cazzo, che mette i pezzi, lascia perdere. perdere, fregatele. Sì, oggi ne ho visto un altro, 3006, buono, è coso, oh, stato modificato, c'è scritto, 130 euro. Figurati. Ma te lo sto dicendo, cazzo, c'è sacco di gente, cazzo, che è uscito di testa, cazzo, che vuole un 2009, cazzo, 300 euro, ma sta scherzando, non esiste, cazzo, ma sta scherzando, oh, ma ce la fai? Sì, a salutare nel conto, sta tranquillo, io a salutare nel conto. È appunto per quello, quindi fregatele tu. No, futedini, non c'è perso niente qua, non c'è rimesso niente, non c'è perso niente. Il discorso è quello. Sì, vabbè. Io gli faccio Guido, ma me lo tengo. Non è venuto a, neanche a vederlo, a provarlo, quindi ce ne so che andi è. Vabbè, io la verità non so che fine abbia fatto il mio, è la verità, il con il 4000, cioè con il fontanino 2009, questo la verità non ti so dire se si è venduto. 300 euro, quello che vuoi, questo non te lo so dire, ma comunque sia, non so proprio di me, lei me l'ha pagato e quindi se la piglia in culo, se lui se l'ha venduto 300 euro, meglio per lui, sono contento per lui, il discorso è quello, anche la manta, addirittura, e quindi a un certo punto... basta, i regali sono finiti, capito? Il discorso è quello. Tutto lì, se dovesse essere così, ma spero per lui che sia una persona seria e cose del genere, ma nel caso dovesse avere fatto una cosa del genere, Antonello ha finito di dargli i regali, capito? A poco prezzo, il discorso è quello. E a rivendersi, tutto lì. Ma comunque sia, non lo so. Io ho creato i miei dubbi, ma già si fa sentire a un certo punto e quindi si vedrà tra l'apparecchio e la mantova. Si fa sentire, ci va quello, no? I ringraziamenti ci sono. Sì, io già vi ho detto lei, a tutti i figli. Poi non ne prenderà più di roba gratis. E la poi la maglia va. Il cantativo è solo tranquillo, ci mancherebbe a un certo punto. L'antenna e apparecchio sono a posto io. Quindi sono a posto. Poi se lui l'ha venduto di più, quello che è, non me ne fate nulla del cose 4000 e tanto meno del resto, non mi fate fregare proprio niente. Allora per lui che ha fatto un certo guadagno a un certo punto, poi dopodiché mi portate che non mi cerchi nuovi baracchini, perché tanto non ne ho altri, quindi a un certo punto se cercherà il doppio di quello che costano, quindi a un certo punto si è trovato a me che è trovato la me, che è costato la metà, ma poi degli altri poi se non ce l'hanno se li pagherà a un certo punto. Tranquillo, se ne riservi a quattro, mamma. Ho capito. Aspetta, se ne serve qualche altro, non ne ha. Se serve qualche altro, non ne ha, no. Perché non ne ha altri io, purtroppo. A me, ma anche gli altri, gli ho dato il colore di 4.000, gli ho dato la mantovaccia e la mantovattuba, gli ho dato, quindi a un certo punto si deve arrangiare, non è che mi possa fare il cazzo di andare a fare che discorso è quello lì, tutto lì, mi capite? Quindi io penso che sia una persona ragionevole, per quello che lo conosco, e mi sembra tranquillo, quindi a un certo punto spero che installi tutto, che pare che così non lo trova più, il discorso è quello, tutto lì. Sì, vabbè, ma sarà così, purtroppo. Ce la teniamo come viene. Beh, quello sì, quello già è vero, ma comunque si va. Speriamo bene per lui, non per me. Io mi sono adattato, diceva quello, a un certo punto. Quando qualcuno mi regala un apparecchio, quello del genere, a un certo punto guardo quanto vale eccetera eccetera, dopodiché se si può prendere, se non si può prendere, se va bene, se non va bene, eccetera. Tutto lì, il discorso è quello. Cosa ci vuoi fare, Antonè? Purtroppo è così. Andiamo per così. Ah, quello c'è, è vero, aspetta. Oggi non entra nessun altro, siamo in due oggi. Non ho capito. Siamo in due oggi. Ah, su questo qua, sì, me ne sono accorto, infatti. Sì, o sono in giro, non ha ne gana di entrare. Gente, non ti preoccupare, gente, no? Fregate. Attenzione, 10, c'è qualcuno. Un bel semo. Vabbè, meglio pochi che buoni, che tanti e cattivi. Ti arrivi, Bruno. Buonasera. Certo che ci arrivi, Ciccio. Buonasera. Ui, ho fatto due giorni che c'è dopo non verrà nessuno. Che fine è fatto? Stavo parlando con Antonello fino adesso. Fino a due minuti fa. Antonella, ci sei? Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Bene, dimmi che baracchino è questo qua? Il 3009. Il 3009 è famoso, bravo, ci sei rifatto. Sei Antonella, dimmi. È ancora vivo, visto hai, eh? Tu pensavi che fosse morto con l'apparecchio, invece funziona ancora. No, sta uscendo male, Antone, come mai sta uscendo così con ripetitivi e rumori? Con ripetitivi? Cosa c'è? Lei con il microfono? È certo che c'ho le comando, sto usando. Ecco, è quello lì che magari ti fa ripetere di più il bip, l'eco, e a volte esce con rumori. Comunque sia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fa sottofondo. Ascoltati in cuffia. Non lo so, mi ascoltano in cuffia, la avete di te. A me, Tore, lo senti tu questo ruolo? Da ancora è così. Vai e viene, però adesso ce l'hai fisso. Pare che va e va, c'è un buffone appresso. Che dieta? Va a far cupone. Ah, c'è ancora più forte. Cerca di scalciarlo. Perché è più forte che su buffone. Adesso va meglio. Vabbè, non c'è l'ecco, va bene così. Va bene adesso che non c'è l'ecco, sì. Dove rispondi? Certo, va a rispondere a me. Certo, sembra un buffone. Cosa avete in voce, io? Non lo so che ci vedete a Cavanniro. Magari è troppo alto il microfono, Antonio, regolalo. Fa sempre quel rumore c'è sottofondo, fa così fa. Aspetta un secondo, aspetta che mi dà. No, ripeti. Sì, cosa vuoi che ti dica? Quello che vuoi. Non sei andato già per darti un riposo. Oh, oggi no, non è entrata ancora a scuola. Domani entra alle 9 o 9 e mezzo, mi pare. Quindi non so nulla. Se devo accompagnare la signorina domani. Non so cosa raccompagnare il babbo. Eh? Vabbè, dai, se l'accompagna il padre meglio così. E arrivare, me ne gioco dovuto bisogno in zitto di Manzano a Villa Manuela all'aeroporto. No, io la figlia viene nel mese, nei primi di luglio viene, quindi se dovranno prendere l'auto, noleggio, se dovranno prendere, così mi ha detto che ci prendo l'auto, noleggio, e così andare bene. A me non sono indipendenti, solo che sa che tu bagani. Chissà quanto le affitta, non ho manco la minima idea di quanto ci fanno pagare. Mi stava dicendo sulle 200 euro. L'ho trovata, prendendola da adesso, fermandola da adesso, stavo pagando 200 euro. Ma per quanto tempo? Ma mi dice 5 giorni mi sembra. Guadagnano bene. Guarda adesso come va, meglio o peggio? Vai senza fare la portata, senza parlare. Ciucu ciu, ciucu ciu, ciucu ciu. E adesso va meglio, non si sente più il rumore. Ah, meglio così, è ora. Cosa le hai fatto? Eh? Cosa le hai fatto? No, ho cambiato il baracchino, alimentatore, eccetera. Ho 5 baracchini e 5 alimentatori. Mi è rimasta? Beh, me li ho comprati. Cosa devo fare? Ma alimentatori come? Da quanto? Il PSD 10-12, poi c'è il... Aspetta, te lo dico subito. Sono bassi come amperaggio. No. C'è il 35 ampere, quello c'è da 50. Ne ho due però, perché io qui ho gli apparati in base che vanno sia a 12 che a 2,20. Vabbè, poi devi contare che c'ho quello da... Ne ho due da 25 ampere, quindi figurati tu. E io va bene, dai. Cava cava. Dove? E poi c'è un baracchino, mi dà di là. No, non ho preso nulla. Dobbiamo venire lì a vederlo, a provarlo, e cosa? Ma non si è fatto vedere. E tu punzecchialo. Eh? Ho detto tu lo devi punzecchiare, da me quando vieni. Ah, dico più nulla, non me ne ha fatto nulla. Ma non me ne domande, non mi domande né nulla, quindi. Ogni tanto l'accendo, ma questa... E quindi già mi va bene così. Ma cos'è un quadribanda quello? E io fa quadribanda più 50 metri. Oggi sono andato al cimitero e sono andato a trovare Natalino. Vabbè. Allora tu, è presente dove ci sono le tombe in terra? C'è una parte che è tutta quanta piena di lapidi ed è da quella parte lì, l'altra parte ce ne sono poche di lapidi. E dalla parte dove c'è, secondo da dove ti risulta adesso a sinistra, però se entri dalla strada di Alghero, da lì, ti risulta sulla sinistra. E devi andare in fondo ci sono gli alberi, in fondo e sotto gli alberi lì. Oh, nella tomba l'hanno messo. Vabbè. Non di diavano soffri più. Durone non intende più. No, è in terra. Però c'è la lapide. Ah, in terra è. Vabbè. Se è in terra c'è la lapide. fotografiarci? Sì, c'è una lapide anche bella. C'avevo questo cruccio che lo dovevo trovare e ce l'ho fatto. E adesso quando ci vado, o sabato, domenica, guardo a vedere se lo cerco e guardo a vedere se lo trovo. È facile. Praticamente tu dovevi venire rapidi, prendi la stradetta che c'è, no? C'è una stradetta che devi fare. Alla fine della strada ci sono degli alberi, delle cose sotto gli alberi, l'hanno messo proprio da ultimo. Mi stai dicendo che in fondo, giù, ci provo a vedere vicino agli alberi che trovo. E infatti non è difficile trovarlo, non è difficile. Vicino cosa c'è? Cosa di quelli degli occoli anche? No, tu devi entrare dove ci sono quelle che chiamavano le tombe dei poveri, quelle in terra. C'è una parte che ci sono poche lapidi e l'altra parte è tutta piena di lapidi. Tu prendi la prima stradetta che trovi, la prendi e vai in fondo e la ciappi giù. Non mi sei detto che è in terra. Allora è dove ci sono tutte le tombe dei poveri. Esatto, però c'è una parte che ci sono meno lapidi, dall'altra parte è tutto pieno di lapidi, capito? Andiamo alla strada centrale, quella alberata. Come entri devi andare a sinistra, devi andare. Esatto, sì, se passi dalla strada di Alghero, sì. Entri da lì, e vai verso sinistra. Vai verso sinistra e c'è quella stradetta che ti porta in fondo. E poi c'è la strada rustica. Quella rustica, quella praticamente che c'è a fianco alle tombe che ci sono in terra, no? C'è quella stradetta, ci sono i viali, là, si chiamano i viali, chiamano come stradetta, come vuoi. Allora, quella stradetta mi sta dicendo da venendo dalla strada era a sinistra. Via, sì, entri dentro dove ci sono tombe dei poveri e poi vai a sinistra. Io sì. Sabato, domenica. Ci scendo e vedo. Io so dove è Bacchisio. Ecco. So dove è. Ci vado ogni volta che è, vado, passo anche da lui. E io non lo so dove è Bacchisio. Niente, ce l'hai dove ci sono le tombe e gli oculi. Che è tutto tombe, dove lui è tutto tombe. In mezzo ci sono le tombe, dall'altra parte delle cose ci sono gli oculi. E manca un paciente, è tutto un vero di tombe di oculi al cimitero. No, dove lui è tutto tombe, sulla parte che ci sono anche quelle tombe, come ti si chiamano, che sono indiviso 7-8, cappelle, dove ci sono le cappelle, lui è sulla la prima, la seconda, la terza, la quarta della quinta, nella quinta fila. Ma passa da dove? Dalla strada di Alghero o dove viene da viene Porto Torre? Dai, guarda, se scendi dalla parte, se vieni dalla parte di Alghero ti viene in fondo, ti viene. Dalla parte nuova, si può dire. Però dalla parte, scendendo è dalla parte destra. Vabbè. E non è facile trovarli. Perché negli altri ci sono gli oculi, ci sono, dall'altra parte, alla parte sinistra ci sono le tombe in mezzo e gli oculi dall'altra parte, che si trovano con le scale e tutto. Avanti, Ale. Già lo so com'è. Già l'ho visto poi il cimitero, è un casino a trovare persone fregate. Non è così facile. È grande il cimitero ormai. Non è così grande, ma a un certo punto è un casino, bisogna chiedere a quelli che sono di là dove è la tomba eccetera eccetera, dove si trova eccetera eccetera, hai capito? E a Porto Ottavo se ne hanno fatto due cimiteri, perché in uno non ci stavano più, ne hanno fatto un altro. E appunto per questo sto dicendo, comunque sia, vabbè, io ho visto, stavo cercando mio nipote, mio cugino più che altro, non sono uscito da trovarlo, quindi a un certo punto siamo stati indietro, perché è molto grande il cimitero di Sassari, capito? Poi Giovanni l'ha trovato, grazie a Dio, e quindi ci vado a trovarlo e va a fare più, capito? Piano piano. Io per dire sono andato stamattina a cercare i miei suoceri, non sono riuscito a trovarli, e nel cimitero nuovo sono andato due volte con mio cognato eccetera, però è tutto intersecazione, non se ne comprende niente. Sì, già lo so, devi andare all'ingresso e chiedere dove c'è il numero eccetera eccetera, hai capito? Perché ci sono i numeri, ci sono la verità, quindi una volta che c'è i numeri dove i casi, dove tuo cognato, tuo cognato, quello che è, tuo nipote eccetera eccetera, hai capito? Devi chiedere solamente all'ingresso, tu dici il nome e il cognome, lo troveranno. Ti dicono sezione D, sezione A, sezione C, hai capito? Sì. E ma bisogna cambiare la piantina, che se venisse un me di tombe, di coso, adesso è diventato enorme, il cimitero lo stanno ingrandendo di brutto. Non è più come prima il cimitero, adesso è ingrandito, è un togliaio adesso, non trovi più nessuno. Ah. Io ogni volta che vado sono passato a trovare Attone, l'hai, mia moglie, il fratello della moglie, eccetera, e li conoscevo bene. Già lo so, ma dopo adesso le cose sono cambiate, caro mio, non è più come prima. Adesso il cimitero si è allargato, quindi a un certo punto fa A, B, C, D, eccetera, eccetera, poi dopodiché è un casino, capito? Vabbè, io quando non trovo le tombe faccio la preghiera, è come se gli arrivasse lo stesso nel cielo. Me lo auguro, ma comunque sia, piano piano si vedrà. Perché stai sparando di radio, Antonio? Ah? Che stai arrivando un basso di radio? Basso di radio? Anche adesso? No, adesso no, deve essere che ti ha allontanato troppo il microfono. Ah, c'è stata una cosa del genere. Hai capito? Ok, va bene, là. Sto cercando una cosa. Su internet, se vediamo un pochettino, vediamo un po' di fare una cosa totalmente diversa. Kappa. Meglio da Sordinoli, purtroppo artificiale, ma qui ho una cosa, vada, non mi dice già, ma tornerai, ma già ho una volta, poi non me la metto quindi. È facile, come entri nella parte di Alghero, svolti subito a sinistra e scendi giù, sarà 70 metri scendendo, e ci sono le fotografie che sono colorate, sono a colore. Sempre in tomba. Cosa? Sempre in tomba. No, è nell'uculo, non è in tomba. Oh, Io mi metto a girare l'ultimo, non tomba anzi, no niente. E vabbè, già la paraggia a fare con lui. No, c'è lui, la moglie è sotto e poi c'è il fratello della moglie, il cognato, sotto ancora. Sono tutti e tre vicini, adesso è morto il figlio di Tore. Puro, certo, andiamo bene, andiamo. Tutto, tutta la famiglia, dai. No, ci sono due donne adesso. C'è Chiara e Carla, ci sono, sono vive. Vabbè. Arriva in cena, buonasera, Luca. Ma un attimo, non finisce uno. Chi è morto? Il figlio di Tore è morto? Sì. Non mi ricordo come si chiama. Sandro. Cazzo. E quando è morto già? Sarà una settimana fa. Infatto? No, no. Vabbè, ne parliamo in radio, non so. E io che da? Va bene. Stava soffrendo poi. Per soffrire soffrire meglio morì. Adesso ci sono Carla e Chiara. Se le figlie e donne. Purtroppo non è stata fortunata. Dove è morto dentro la vasca da bagno, povera? Da un po' per morto adesso, no? Sì, da un po'. Da un po'. Si doveva fare il bagno, anche la moglie ha praticamente l'ha bussato, ha detto, è finito di farti il bagno. E non rispondeva. No, mio mamma non rispondeva, la puttana ci ha fatto buccio del travaglio. Ma sei gigante. Ma che fatto di venuto? Purtroppo la vita è questa. Stamattina ero al cimitero, mi ho fatto una bella camminata, ero da tanto che non andavo. Oh, Lillo! Beh, Giulia! Ci nomi! Puta giurampata, che cazzo a te diciamo, ma come rispondi, oggi? Non ti chiamo più, Ma quando? Quando mi hai chiamato? Grande, arrivare, già vedi. C'era silenzioso sicuramente, perché ogni tanto sai cosa mi succede, io lo cambio e se ne va da solo silenzioso, io non capisco perché. Lo metto e poi magari anche come lo tocco, non lo so. Avevo detto, questo sta trombando con la scopa, cazzo. E vabbè, niente di strano, senza adesso, non me ne rassata a me. Buonasera comunque. Buonasera, buonasera a tutti, dai che mi preparo da mangiare che devo andare a lavorare verso le 9:30. Ma ti richiamo, Manuele, qualcosa di urgente? Ah, ti chiamo io domani mattina quando sono in ufficio. Alle 5:30 bene va. No, no, il sud saluti. Così diciamo il muro. Che vagato, va bene. I pesci stanno andando bene. Sì, infatti te lo devo dire per queste cose qua. Ma i gamberetti si sono usciti, o non ne dica ancora? No, quelli se l'hanno mangiati. Ui, che belli che sono diventati, già. Tutte e tre erano ieri sulla roccia. Giallo, blu e nero. Vabbè, si la mille luci. Che ti dica, da quando li ho messi non li ho visti, sicuramente come ti dai giù vado ce la rimaniamo. No, sono diventate belli grandi, adesso sono la sua misura. E 25 centimetri sono al massimo. Quanto? 25 al massimo. Ma erano 2,5 centimetri. E vabbè, 2,5 pure, adesso 25 centimetri. Cazzo, 25 centimetri, cazzo, per mettere acquario. No, volevo dire 2 centimetri e mezzo, mi sono sbagliato. Cazzo, cazzo. È stato un lapsus. Avanti, Tore. Infatti 25 centimetri è vedo grosso pure. È manno. 2 centimetri e mezzo e. Già lo sa. Manuele lo sa, l'ho detto io che erano così, che facevano così. È stato uno sbaglio parlato. Un errore di parlata. Avanti, Luca. Già, aspetta 2 secondi che vado a farmi un panino già. C'ho cicolo mal di testa allucinante. Arrivo subito. Da Semenovi. Non ci muoviamo da qua. Sì, per poco perché sono le 7:30, già arrivi tu Dyson. Ecco qui è. Cazzo, non mi chiede. Ah, te già l'otto ma come ti zinco. E vabbè. Tu chi è? Sì, noi pochino 25 siamo là. Quando ho guardato poco fa non le 7:30. E allora comincia a brontolare. Faccio numero dove se n'è andato mi denaro a Rovacconi. Ma allora mi richiede la mano. Mi sta lecchinando. Ci andiamo, andiamo. Questo sono belli. Via. Non lo vedere la di Bahami. Via. Ma io l'ho portato 2 volte, la mattina e la notte, la sera ne è 8:15, 7:30, 8:15. Senti, tu ce la vedi senza bisciarsi? No, la fa la mattina la fa. Quella notte, cazzo, non mi aveva quasi qua, fa quasi 50 voci, non quasi, che non ogni volta che lo fa 40 voci, quasi. Ogni angolo è un giugno. No, ma ti dirò anche la sera quando lo porto non è che ne faccia chissà quanta, ne fa poco. Da me se ne beve molto il tuo, non c'è mai diabete. No, beve normale, però ogni angolo, non faccio l'erba troppo. Sente l'odore e ci lascia il suo, alcune gocce ci lascia. Perché lasciano le tracce, no? Specialmente adesso che ci sono le due femmine in calore, lui non vuol più adesso, non ma sente le femmine in calore, sotto casa, sotto. Ma io lo porto 4 volte al giorno, la mattina presto. Poi la sera alle 4:30 lo scendo e poi la notte verso le 9:30. Guarda, mi ha abituato così. A me il dottore mi ha detto quando mi fai fare le 12 ore, ho detto sì, e continua a farmi fare così, cioè va bene. Cosa devo dire? Cioè, a lui va bene, se no si sarebbe lamentato. Forse è abituato così. Va così, va, no, mio invece è abituato a 4 volte a radio. Allora io quando era piccolino lo portavo anche 6 volte, non 4, sì, lo portavo anche 6 volte, però lo facevo per abituarlo a fare la pipì fuori, perché la faceva sulle traversine e terrazzo. Poi per abituarlo lo portavo, poi piano piano calato, capito? Infatti si fa così, deve calare. Io l'ho abituato 4 volte al giorno, l'ho abituato. Via. Dipende sempre come voglia vincere. Antone, ci si. Ah? Ehi, ci sono. Aspetta un secondo. Ma non è una cosa, ma... Mi sono incasinato. Stavi parlando, Don? Mi senti, sì? Adesso sì, ma poco fa no. Ho detto che stavo provando una cosa, che stavo scaricando, e invece mi sono incasinato. Ah. vabbè. Tu ogni quanto lo scendi il cane, Antone? Ah, sì. ciao. Ciao. Alta, guarda quel microfono perché sta uscendo un basso di radio, quasi zero. No, sono io che ho, stavo modulando lontano la piccola faccia, va bene. Adesso sì. Appunto per quello sto dicendo. Hai capito? Stavo picchiato controllando delle app, capito? E quindi è un casino. Cavolo, cavolo. Vabbè. Allora, dove si sono fatte tu? A 20 e tra poco alle 8 meno un quarto chiudo, metto la prima bottiglia e più tardi mi vedo l'altra. Tutto il masticato, se ti stai drogando. Da te. Niente. Impasticato. Ma voi ancora ci sei? Sei un drogato, quello beh, capito? Tu sei un drogato, quello beh, hai capito? Hai capito, Antonello, cosa ti ha detto? Che sei un drogato! Aspetta, ce ne intendo in dubbio, figura di Dio, ce ne intendo. Antonello, non ti sento per niente io, c'ho la radio bassa bassa. Sicuro sì che c'ho la radio bassa bassa, non è possibile, io mi sento. Allora, col coso, con l'apparecchio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Ecco, adesso mi sento. Ma là c'è uscito pure a frusci, c'è uscito. Già lo so, lo sto dicendo, io mi sento, perché mi sento, non è che non mi sento, il discorso è quello. Oh, 3, 4, 5, 6, prova. Cosa stai vedendo? Il Master Plus, Antonio. No, sto usando il coso. Quello che mi ha dato... Quello modificato. Ah. Dai, fratelli e sorelle, non abbiate paura. Quello lì mi ha detto da nere che è uscito dalla fabbrica, così io ne ho avuto uno, così uguale. Ha fatto per quello? Mi pare che li facessero in Giappone. No, questo no, è diverso. Io c'ho quello ente che la gente come ti si chiama. Ecco, il 6.000, Intec 6.000, no, Intec 600. Ah, ho capito, sì, come ce l'aveva Gio Maria, papà? Ah, è quello di Gio Maria. Ah, quello lì? E perché non lo usi quello? No, con quello mi sa che... No, non si capisce nulla quando va a vedere. Com'è che non si capisce nulla? Ma solo ecco, non si capiva nulla di quello che dicevi. Guarda, è un alto. Forse era troppo alto, era. Poi, sembra la regola che te lo regolo io. Regolato l'ho regolato, solo che... Mi sa che ho fatto, dica. Ho messo anche la spugna nel microfono. E non esce bene. E tu lì, ecco. Che ci ho da attaccare la batteria, se no te l'aveva fatto provare. Ascolta, ma si può escludere l'eco? Sì, lo abbassi. Non lo senti, senti la voce normale. Infatti sta funzionando con la voce normale. E poi hai svegliato, ho messo quel tuffato perché devi stare un po' a pressarlo. Ma sai cosa fai tu per regolarlo? Ti prendi un altro apparecchio, ti metti sullo stesso canale, metti le cuffie nell'altro apparecchio e ti ascolti come esci. Ti ascolti e lo regoli. Buona c***a! Non ci sarà così per forza, come faccio io? Abbassa il volume, scusa, se fischi abbassa il volume di una dell'altra. Come succede a me? Adesso, se... Mi... Ecco. Adesso, vabbè, ok, questo è. Che ecco hai messo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. microfono tirino lateralmente invece che davanti. Quegli apparatini vanno tutti lateralmente i microfoni, se no esce proprio un po' capito? Già capito. Infatti ho fatto così. Adesso mi senti bene, meglio? Vabbè. Adesso è di lusso. Ok, ahi sta. Perché sono talmente potenti che se li parli davanti non esce bene la radio. Mi stai già arrivando. Raga, io vi saluto, dai. E questo è arrivato a chiamarmi. Allora vedi che mi chiamo quando dovevo andare, non c'è problema. Lui già si fa capire. Vero Tyson, andiamo giù, me, lunga gli dato. Vedi a Tommy, così ti porti via anche a lui. A Tommy te lo porti tu? No. Adesso, a un certo punto, lo poteva fare la pipì. E poi non è attirato. Lui si mette sopra al letto tuo, toglie le lenzuola e si è a posto. Almeno lui tranquillo che tu stai scendo da casa. Sì, ma se io porto tu mi contesto, si rumagna. Va bene, non c'è problema. Ah, hai compreso tu. Va bene, raga, vi saluto. Statemi bene e buona continuazione. Ciao Ottore, ciao Luca, ciao anche a te, Ali. E tutti gli ascoltoni, dai. Ciao Manuel, se ci sei ancora. Ok, già, io ti saluto lo stesso, ti saluto pure, mi trovo il passivo. Ci risentiamo Antonella, alle prossime, ciao Luca e ciao Manuel, se mi ascolti, se no, pazienza, ci risentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Io ciao, a domani, là. Ok, ciao a tutti, a domani, mattina. Thank you.